Il vecchio e i suoi figliuoli, da Favole, dicendo La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Nell'union la forza. A questo alto concetto, antico quanto Esopo, per quanto io venga dopo, non voglio un filo aggiungere. So che Fedro non esita a rincarar sovente per ambizion la dose. Se allargo io qualche volta non è di vani iperboli amor, ma per dipingere soltanto delle cose presenti il nuovo spirito e i vizi della gente. Un uom che i piedi avea già quasi nella fossa, fatto di dargli un fascio, disse ai ragazzi suoi: «Vediam chi questo fascio sa rompere di voi, e ciò che insieme lo stringe vi spiegherò di poi». Prova il maggior e un altro, riprova anche il più forte, con gran sforzo di muscoli, ma invano. D'una linea i dardi non si piegano. Allor, disse il vecchietto, vicin quasi alla morte, da solo, o gente debole, saprò vincer la prova. Risero i figli e alcuno pensò che fosse matto, ma poscia più non risero, quando il fascio disfatto il vecchio prese a rompere i dardi ad uno tal è della concordia, soggiunse, la possanza, e il ciel supplica e prega il moribondo padre che in ogni circostanza amor li stringa, amore che ancor sì ben li lega. E molte altre parole aggiunte, ei disse: addio, io vado dove m'aspetta coi miei parenti Dio, ma spero che sarete sempre buoni fratelli. E mentre piangon essi, versando un mar di lacrime, il vecchio il ciel sen va. Sepolto il genitore, i tre figli raccolgono la bella eredità, bella ma inviluppata da questioni e cause, con prossimi e vicini, e imbrogli in quantità. Dapprima i tre fratelli, stando d'accordo, vinsero, ma non durarono un pezzo, che tosto l'avarizia, l'ambizion, l'invidia si misero di mezzo. E liti e controversie scoppiarn tra di loro, a lor danno e disdoro. Al chiasso che si fanno, com'era naturale, si svegliano i parenti e i vecchi creditori, che ancora in tribunale ripigliano le cause, rinnovan le procure, trovan le cose oscure, assurde, inviluppate o male giudicate. I tre fratelli in lite fra lor e di contrari pareri, il fianco aperto lasciano agli avversari, e il senso a loro spese conobbero ben tardi di questi disuniti e ben legati tardi. Fine della favola Il vecchio e i suoi figliuoli. Questa registrazione è di dominio pubblico.